Angelo. Attento 5. Attenzione, attenzione, quindi di QRM oggi, brutto modico. A chi lo? Senti grazie, oh. Senti grazie, oh. Attento 5. Hola, c'è qualcuno? Attento 10. Sono le 10, c'è qualcuno? Sono tutti scinti. Tutti morti, è bello. Chiaro, beh, per carità, guarda, per carità. Ho fatto bene a mettere l'annuncio. Cazzo, non c'è mai nessuno. Cosa te ne fa la roba? No, brutta. Sono tutti al lavoro, ok, ma arrivi di sì, non c'è nessuno. Allora, ho già appena appena fatto, ma fa vita a mezz'ora. Già lo so, purtroppo. Sì, dobbiamo dire che il Covid qualche cosa ha fatto muovo, se no guai, se no sarebbe stato ancora più morturio. Ma cosa sta uscendo lui? Ma infatti, infatti. Lui ha il pace 23 canale. Col microfono salta massa pro. Allora, la radio è bellissima, bella corposa, però togli l'eco, ti voglio sentire senza l'eco. Guarda un po', 59, posso aumentare l'amplificazione. Ah no, va benissimo, bella, la radio è bella, una delle migliori che ho sentito delle tue, mi piace, bella chiara la tua voce. Meglio, meglio, ah, con l'eco sta male invece, e vabbè, gliel'ho messo giusto per darne un po', ma... Non parlare, manda solo portante. C'è una ventolina sotto, si sente in sottofondo, ma poco poco. Ventolina la stufa. Guarda adesso. Forse appena si sente, ma niente di disturbo, mi fa così. Chi è che ha fatto Ma qualcuno che non sta uscendo di radio. No vabbè, già stava uscendo di radio, forse voleva fare la battuta, faria una curraccia. Sempre Game Master Plus versione flipper, questa qui è. Ma non ho capito bene, il microfono è il Master Pro. Chi è questo? Avanti, forse non stai uscendo. Sono più 10 qua, sì, però non ti sento di radio. A meno che non sia Capri. Avanti, già è Claudio, tu sì? Vabbè, il giornale sembrava lui. No, sta facendo l'antenna Game Master Plus versione flipper, così è. Ma certo, sempre. sempre quella, oh, Roberto. Quando migliora il tempo, Lu, sempre con la paga però, ci fermiamo, buttiamo su nel tetto, ne ho tirato giù l'altra antenna con la multibanda che tanto non si vede nulla, e voglio mettere quella a quattro elementi e magari la metto in verticale, vediamo un pochettino cosa succede, se magari riusciamo a accordarla un po' meglio. Avanti, chi vuole entrare qua sul 10? Chi è avanti? Allora, c'è qualcuno sul 10? Cicu canale 10. Cicu 10. E beh, c'è qualcuno? Tutti molti in Libia? Hanno attaccato tutte le antenne a Giulio per la pioggia. Ah, l'antenna gli si è bagnata, come ho capito. Ciao Luca, e beh. Ciao Giulio, capito, no, quando piove non c'è che non entra nessuno perché hanno paura della scossa. Perché? È registrato a break. Già lo so, è così. Vabbè, ce ne abbiamo le fare, quello che dica. Avanti Giacomo, buonasera. Sì, buonasera a tutti, ciao Giulio, ciao l'altro, non mi viene adesso, Luca se non sbaglio. Giulio, mi puoi dire com'è la radio, se va bene o se c'è qualcosa che sto progettando, un piccolo microfono lo sto pensando. La radio è perfetta, va benissimo. Ah, quindi l'ho centrato, va bene, ok, vi ringrazio, ritorno perché mi sembra perché devo fare delle allature e adattare questo microfono che è un apparato un po' complicato. Sono saluto, a dopo, grazie. Ok, d'accordo, continua pure Gianfra, non c'è problema. Avanti Luca. No, una gatta gatta, capito, giù. Tuoni, lampi e fulmini. Tuoni, lampi e fulmini, vabbè. Ma allora sono tutti quanti all'aperto e hanno paura di bagnarsi. L'antenna anche se si bagna non le fa niente. Che cosa vuoi fare? D'altronde, se non ne fa nessuno, pazienza. Allora, no, vabbè, però sai che staccano il PL perché sennò dal fulmine, capito. Ehi, oia, vabbè, senza il fulmine, non ha negana e basta. Per cui, e poi oggi è giornata di fulmini, io non li sento proprio tutti questi fulmini. Cosa ha fatto? Un tuono grande stamattina, ha fatto un po' di grande, lì a Sassari, qua non ne ha fatto nemmeno grande. Un pochino di più, c'è anche poco fa, basta, niente di più. Ma, cazzo, no, ma l'avevo messa la pioggia comunque, l'avevo messa. Allora io, guarda, sinceramente non ho mai staccato il PL, mai. Vabbè, io quando avevo la stella, la stella era allora, l'avevo lasciato attaccato e mi ha fregato quattro corse. Per cui ero al lavoro e dunque non potevo nemmeno staccarla. Al momento che aveva iniziato il temporale e mi ha fregato quattro corse, due baracchini, un alimentatore, un dinaretto che avevo, quelli 474 come cinese si chiama, quelli piccolini. L'unica volta che l'ho avuto me l'ha bruciato il fulmine. E poi anche il router del computer, anche quello mi aveva fatto partire, pazienza, come vuol dire, andava così. No, infatti, no, qua mai caduto niente. Anche quando avevo la moto, qua parliamo di tanti anni fa, mai staccato nulla. Sì, ma qui nella zona dove ero io, nemmeno a 200 metri linea d'aria, 200, forse anche di meno, era caduto su una casa, sull'antenna di una casa, dell'antenna della televisione. Fortunatamente il proprietario era appena sceso dal tetto, si aveva sistemato l'antenna, il caso ha voluto grazie che l'ha presa in pieno il fulmine, infatti gli ha incendiato anche l'ingresso del gas, questo qui ha l'impianto a gas dentro casa, no? Proprio davanti alla porta ha spaccato il tubo addirittura e gli si è incendiato, infatti sono dovuti arrivare i pompieri e l'hanno spento. E poi altre cose che hanno fatto, non è solamente quello, almeno frigoriferi, scaldabagni, di tutto, addirittura il gruppo elettrogeno qui della pasticceria che c'è qui di fronte a casa, al meccanico che c'è a 5, 6, 700 metri, 800 anche, gli è saltato il motore del compressore, insomma ha fatto un disastro il giorno, ci hanno fatto il danno, altro che... Sì, è da poco quel vento, forse tu sei stato fortunato, così è, perché porca miseria, ho visto i danni che ha fatto lì. Appunto, te lo sto dicendo, a 200 metri in linea d'aria da casa mia, nella strada che c'è, non la strada parallela, non la strada attraversale che c'è alla mia via, dove abito io. E dunque, te lo sto dicendo, intanto a quello dell'antenna gli ha bruciato il televisore, l'ha bruciato tutto dentro casa. Tutto gli elettrodomestici, tutto li aveva bruciato. E poi li aveva incendiato anche il tubo del gas che c'è all'ingresso della porta, no? Dalla strada, non arriva il tubo del gas. E ha spaccato il tubo e subito ha preso fuoco. Cioè che subito sono arrivati i pompieri e l'hanno spento loro. E il giorno era un disastro in questa zona. Cosa ci vuoi fare? Oh, io. Vediamo se entra qualcuno, io sto lasciando un po' di bianco ogni tanto. Ma stasera si vede che sono tutti quanti in girella. Hanno fatto la Sardegna gialla, sì che tutti quanti a zonzo, tutti in giro ce ne sono andati, vabbè lasciate fare, lasciamole fare, io stavo facendo qualcosa qui a casa, sono sceso da su 10 minuti fa, niente di più, tanto cosa stai, no? Mi danno alla baracchina per cosa, non c'è mai nessuno, sì che tanto vale, mi faccio le cose che mi interessano di casa. E così aggiornate, ma c'è una poco fa, Roberto Quadrato, non l'ho sentito io, non l'ho sentito, io te lo sto dicendo, sono appena sceso da su, mi sono fermato qua, e dunque è tempo di lavarmi le mani, e basta, niente di più, qua c'è solo 10 minuti fa, non di più. E d'altronde così, e vado qui qua. Andremo a testi, non c'è problema, sopravviveremo anche a quello, se la gente non entra, non c'è problema. Meno male che non c'è di nuovo la portante, anche ieri io all'ascolto, non avevo voglia per niente di entrarci, anche perché ripeto stavo facendo cosa qua. E poi meno male che non c'è più la portante. Ma comunque. Ma dovrebbe essere molto vicino a me comunque. Per carità. Ma infatti ho detto, basta fare una prova. Spostarci dopo il 40 e vedere, capito? C'è qualcuno che ha radio che vanno oltre il 40. Da lì. Vabbè, ma oggi ormai tutti quanti ce l'hanno. 240, 250 canali, anche 400, per cui arrivano sempre quello. E tu ce l'hai lo split in quella radio lì? Appunto, si può, caso mai, se tu arrivi da me e passi, e io magari non passo da te, si può utilizzare quello. Si può utilizzare e ci va avanti lo stesso. Sì, infatti anche. Roberto, è entrato sì. Roberto Quadrato, ci sei? No, ma sarebbe entrato, se ci fosse stato sarebbe già entrato. Evidentemente alla radio 30. No. E d'altronde cosa vuoi fare? Te ne stai di davanti a sentire che cosa? Il QRM della radio non si va a nulla. Io ce l'ho a zero. QRM. Difficile che mi salga a me, nonostante c'è un ripetitore qua a 50 metri. Io ce l'ho a 3. Santiago 3, dai. 3, quasi 4. Per cui non è questo grande QRM, va bene lo stesso. Infatti anche ieri, nonostante che c'era cosa Gianni da muro, stava arrivando basso, ma io sentivo lo stesso. Qualche un altro magari non riusciva a sentire, troppo basso, ma io già lo tiravo fuori bene. Evidentemente è aggiornate che succede anche quello. No, infatti. Ti ho dato una foto anche a te, appunto, di quella roba che mi ha visualizzata. Avevi mandato la foto. Vediamo questa foto, come? Ho mandato il video e prima ti ho mandato la foto, vabbè. Per via della prenotazione. Ma che ti avrei mandato? Guarda, guardati il video. Vabbè, guardati il video intanto. Sì, beh certo. Sì, lo sto dicendo, io 3. Perché non era così alto, va bene lo stesso. Poi bisogna vedere anche se trovi vicino hai qualcuno che attacca qualche elettromestico, non lo so, può succedere, no? Comunque già va bene, io non sento né splatter e poco QRM anche. A me chiaro che non diluvia, se diluvia allora il QRM sale, è chiaro. A me è difficile che mi salga, capito, difficilissimo. Eppure l'antenna già Evita è alta, c'è un ripetitore anche di telefonia di fronte, mai, difficile con questa antenna che mi salga il QRM, ecco perché riesco a sentire comunque molto molto bene anche chi chiama da lontano, perché il QRM va di così, ma disturba, capito, disturba. E riesco a sentire benissimo, benissimo. Ciao ragazzi, vediamo un po' se c'è Roberto. Vedi, adesso io l'ho attenuato, ho messo la T, QRM a zero, no, non si sente più. Perché, vabbè, tu mi dirai, ma attenuando così attenui anche la modulazione. Sì, quello già è vero, lo so, però già posso arrangiarmi lo stesso, non è un problema. Alle volte, certo, se è troppo alto, se comincia a essere Santiago 9 e QRM, allora è chiaro che le modulazioni basse non le sento, se no già riesco a sentirle lo stesso. L'ho presa quando mi arrivano da fuori, addirittura Santiago 1, 2, le sento lo stesso, per cui basta fare piccoli accorgimenti e va bene ugualmente. No, se mi sale il QRM vuol dire c'è qualcosa che non va. Ma no, mi sto finendo di saltare una nuova bobina che entra, praticamente va a incastrarsi giusta nella struttura da 8 metri o giù, così, capito, da mettergli giusto un po' di sigillante nella struttura da 8 metri, così che rispetto a quella che hai visto tu, lo rispetta in modo che si incastri perfettamente un po' di silicone, sigillante, e non puoi sbagliare la misura della struttura, tagliando naturalmente il pezzo del cimino, eccetera. Aspetta, ti mando la foto. Ho capito cosa intendi. Vabbè, quello già non è un problema. Utilizzo quel tubo grosso da 40 e va bene lo stesso. Con due boccole e la voglia, quello non sarebbe un problema. Non è un problema, vabbè, avanti, ho buttato la batte, non ci ho pensato più a fare. Sì, ne avevo fatto una, ce l'ho sempre che la dovrei provare, ma con questo tempo cosa fai? Poi saremo più lì. Già ce l'ho l'antenna, anzi ne ho anche una di riserva al riguardo, per cui già non è problema. Arrivato il messaggio, vediamo. Ho modificato anche il portapiel per i PL colorati, hai capito? Però sembra così, ma la voce nella 3D comunque. Di stampa a volte, purtroppo, prototipi eccetera, però una volta che è fatta. Vabbè, guardati la foto della modifica. Sì, va bene, così va bene. Però così ci mette molto materiale, ci mette per fare in 3D, ci mette più materiale. Tu mi dirai, ma non ha importanza. Dopo un disegno in più per dire lo fai pagare a chi lo vuole. Va bene, sì, vabbè, certo. È più vicino alla misura del tubo e va più che bene, così va bene. No, in questo modo cosa fai? Prendi la bobina, la infili dentro la struttura da su, ok, siccome già sai benissimo, la struttura è conica, io con le strutture che ho appunto, prendi la nuova cosa, ce la entri dentro, ok, ce la entri dentro, arriva giù, si incastra perfettamente, un po' di sigillante, fai il buco nella struttura e vedeci con l'antenna. E ecco, ho fatto, senza bisogno di niente di che. Troppo largo l'avevo fatto prima, perché giustamente non sai a chi la devi dare, non sai che struttura usa. Questo tipo l'ho fatta per la struttura da 8 metri che compro io, capito? Sicché non devi stare via a modificare o a schiumare la struttura o troppo silicone, eccetera, eccetera. Si incastra alla perfezione. sono e basta. Sì, quello sì, senz'altro va bene, anzi va meglio. Però anche col tubo, quello da 60, da 63, ci mette un po' di schiuma poliuretanica e andava a mettersi, il tubo lo puoi fissare egregiamente anche al 100, non c'è problema. Andava a mettersi. Diciamo che così magari non consumi schiuma poliuretanica e va bene, metti un po' di silicone o qualcosa del genere, ma ad ogni modo va bene anche nell'altro modo, come facevi prima, va benissimo. Ma lascia perdere la bobina è un'altra cosa, Giulio, non c'entra niente. Io ho modificato la parte inferiore e la parte superiore, capito? La bobina non c'entra niente, la bobina è sempre quella 63, ho modificato, ho rifatto sotto il capo di sotto e quello di sopra e l'ho modificato nella struttura, non c'entra niente la bobina è quella, 63, la bobina è sempre quella. Sì, sì, quello sì. E le due boccole là, quella superiore e quella inferiore, ho capito. Sì, va bene lo stesso. Ma la bobina poi magari la dovrei schiumare lo stesso dentro, perché non lo so fino a che punto possa reggere solamente la canna da pesca fissata solamente da quelle due boccole. Per me è più prudente mettere la schiuma anche dentro il tubo da 63. Secondo me, poi, anche perché va più bene, dai, secondo me va meglio, e almeno hai la consistenza per sempre, mentre invece in quell'altro modo, anche se la fissi col silicone o col tangit, come te la vuoi fissare, prima o poi si può scollare, invece se schiumi il tubo anche, cioè il coso da un 63 va più che bene, va meglio anzi. Allora, la struttura, lo sai, il mio parere, come la faccio io, ai fili la bobina, ti mando anche la foto di appunto quella che ho mandato questa settimana, infili la bobina, ok, si intacca nella struttura, poi giustamente la struttura devi fare i fori, schiumarla, eccetera, eccetera, quello senz'altro, se vuoi che la struttura ti regga come sta reggendo queste ultime che ormai già da qualche anno ho fatto, quello sì, però la bobina non la devi solo scendere con l'antenna, incastrarla nella cosa e basta, non devi schiumarla, perché sia la parte inferiore che la parte superiore, quelle sono già sigillate al tubo da 63 e da lì non si muove più, capito? Poi giustamente la struttura da 8 metri, quella sì, perché sennò col vento si sa che la spezza. Vabbè, ha fatto il tubo, l'ho fatto di 8 metri, quello sì, ma comunque io una schiumata gliela darei dentro il tubo, perché sì, le boccole capisco che possono reggere bene, perché sono collegate al tubo, diciamo, 63, però per una maggiore sicurezza una schiumata anche dentro quello, prima di mettere il tappo di sopra, secondo me sarebbe ancora l'ideale. Più che bene, va bene, va bene, andate, tu mi dirai, vai, intanto io se andremo a finire fuori, gliela spedisco senza smontata praticamente, non è che devo schiumare nemmeno la canna da pesca, poi sarà chi se la installa che metterà quello che vuole, se la schiumerà, se la vuole fare, se non peggio maedo, come sempre. Infatti, certo, io consiglio sempre la struttura di fare quel lavoro lì, sempre, come a quella di Torre, a tante altre che mi ho fatto e a tanti quelli che l'ho mandata dicendogli fai così e così, se vuoi che ti dura, capito, ormai, quello lo dico a tutti io. Mi aspettate, giro le foto di questo ragazzo che gli ho detto appunto fai così che non sbagli, e ha fatto così infatti. Beh certo, è così che bisogna, sì, perché quando la spedisci fuori come fai? Non è che la puoi riempire di poliuretanico, come fai? Capita anche a centimetri, per cui allora rimandi la canna da pesca e poi ci penserà lui a sistemarsi come deve fare. La gente già è capace a fare queste cose, non è un problema. Così va benissimo lei, così va benissimo, centrata, proprio perfetta, insomma diciamo che è più vicina all'originale, dai. Quando è centrata, anziché essere spostata la bobina e poi fatta in quel modo, è come se fosse l'originale, va bene così. Allora, di la linea è più bello lui o me, quando lo fa il rosso cosa fare, ma come spesa di materiale è uguale, sia fatta nera che fatta rossa, è uguale per te, o il 3D è più costoso col rosso? No, a me mi viene allo stesso costo, prendo il fluorescente che pago di più, però i colori questi mi vengono tutti allo stesso prezzo, le bobine. Guarda, ti ho dato anche appunto un video, così risultano, vedi, incastrata perfettamente. Questo stesso è contentissimo, mi ha mandato anche il video, Gianluca, ho montato tutto a posto, mi ha mandato anche il video delle prove, tutto a posto, la qua parte a posto l'antenna, non è che parte, poi se tu ci metti un cavo di cacca, curve, non fai come ti dicono per il montaggio, poi sono affari tuoi, però io da qua le antenne partono tutte perfette, con tanto di sovrata e con tanto di video a chi le mando, come a tutti quelli che le mando, li faccio il video giustamente, capito, di quello che sto mandando, proprio per non avere male, infatti mai avuto, anzi sempre fatto i complimenti e tutto. Anche questo, la piazzata, gliel'ho mandata con la struttura da 8 metri, preparata, diciamo così, lui doveva solo infilare la struttura, il cavo, farlo uscire, gliel'ho mandato con, naturalmente con la fascette, e tutto quanto lui ha dovuto solo vulcanizzarsela, nastrarsela, come gli ho detto io, la piazzata. Contentissimo, capito? Sì, beh certo, non è che già sono cose che la gente può fare, non è un problema, già lo grido, va benissimo così. Beh, speriamo che te ne ordinino tanti, così almeno qualche cosina riesce ad assimolare. Io ti auguro che tu ne possa fare tanti, tanti e tanti. Magari che così almeno se riprende, mi lungo arrivato, mi il telefonino, che tutte le volte che c'è una partita di calcio, quando segnano un gol subito mi arriva la notizia, addirittura gridano gol. Vabbè, comunque, a parte quello l'avrei sentito. Sì, ma se sto dicendo va benissimo così, no, non c'è problema, alla grande, già lo grido. Allora il video che ti ho mandato, mi ha mandato il video anche in trasmissione con un rosmetro Daiwa serio, anche lui, guarda il video, sto usando un braccino elaborato a Colt, vedi un po', cioè, è così, e quando le cose funzionano bene, non c'è cazzi, come dicono gli attori, non c'è cazzi. Ma sento un minutino, oggi vediamo se c'è qualcuno intanto. Ok, d'accordo, dai, io sono qua. Sono stati 60 chilometri. scendi giù, sali, c'è, va, sta pure male, capito? Ma certo che c'è una sorta di roba di malvata, lì. Sì, sì. Venivo pure Gana andando a travagliare. Venivo Gana, perché c'è una Gana di pannuta. No, viene un bel. Sì, la Gana, uno si può mangiare, si può ordinare, si la fa finire. O se no si mette bene in casa, si fa finire. Ah, se appena finisco questo, me vado a sparaci. Lo stanno già portando parecchi, Io c'ho un posto io, che ce ne sono un bel. Infatti ci devo andare con un amico, là. Mi faccio la sprovvista. Guarda, lo sto lavorando io, si fermano gli autisti, allora riprendo, in colore che ritavo da chiamo, se non va di una fascia, un bel grande, ce ne sono un bel. Pure si è travaglio. Anche quello, lavoro sì, vabbè, i compagni non a tutti piace andare. Era cavellami, oggi già, non mi piace. No, ma dico, non è a tutti che piace, capito? Lo so. C'è da camminare un bel, ma chi se ne frega? Ti pungi un bel, ma alla fine non ha importanza. Me ne faccio un bel po', lo faccio tutto a pezzettini, piccolini, li metto in freezer, li faccio le... un po' ogni tanto la pasta con gli asparagi, pancetta e panna, buona ritta. Vabbè, noi non li mangiamo qua a casa gli asparagi, nessuno. A me mi avevano regalati anni fa, no, Massimiliano, la verità non li avevo mai mangiati, ma lì per lì pensavo che fosse qualcosa di amaro, ecco, come può essere la... come si chiama quella che c'è in campagna, la... vabbè, ma metto un nome, va, che mettono anche nella pizza. E niente, l'avevo messo in frigo, e oggi domani sono tamosciati. E poi un giorno Marina mi fa, andiamo a sparaggi giù. E io facevo una passeggiata, c'è la casa della mamma in campagna lì a Canica. E la vita abbiamo fatto un po', e la vita di boh, mi sono una mano di asparagi. Ma io vabbè, io li ho assaggiati, ma non mi piace, la verità sì. Io Massimiliano, se tu li fai con la pasta, no? Con la pane, pancetta, ma con li senti, con la rete esci. A chi piace sì, a me no. Aspetta un secondo, dopo leggere un messaggio. Piove, mi salgono un po', ma che cazzo si da furti. Come sei da casa tua? Sì, a monte. Guarda, quando piove mi salgono un po', ma che cazzo si da furti. Guarda, si brucia pure sul campo. Sì, vabbè, quanto arriva? Uno e due. Sono la polizia. Uno e tre, uno e cinque anche. Ma la porta tenuta, quanto rimangono? Uno e uno, Massimiliano. Ah, beh, sono così. Non va di nulla. Ma come non ho fatto mai manutenzione, ma l'antenna non la pretendi. Infatti, ma secondo me rimane la numero uno, la mantova 5, la mantova 1, la numero uno, non bisogna lasciare antenni. Tu trovi male una. No, a me piacciono lo stesso così, la volontà si dica. Mantova 1, mantova 5, la mantova è mantova, non mi balza. A me l'antenna mi piace un'antenna, capito? Ma poi secondo me se con l'antenna poi lui me la scendi per fare la bella revisionata, secondo me ritorna nuova come prima. Sì, dovrò trovare un giorno, io me la butto giù, me la smonto tutta, me la controllo bene, certo. E allora così tranquillo, capito? Ti metti con le mie finestre e non ti vuoi che 20 anni. Certo. a me piace la verità, la Game Master, però alla fine è un'antenna da nulla, dai, è un'antenna molto, come si dice, molto fragile, ecco, non è che ti dura, cazzo, non manto, ma ti dura pure 30 anni, sono 40 anni pure. No, vabbè, non mi ricordo di cucina, per il bello non mi piace. Fai un roccio, butto in un'altra cabeciuga, no, non mi piace, ho sentito l'antenna così. Beh, l'antenna deve avere anche la sua fascia, no, cosa ne dici? Vabbè, non mi promette come bellezza, ma che rimasto, il cazzo, un amato, ma non la sono proprio bene. Ma infatti, io non le vendono più, sennò questa qua io l'avrei smontata, l'avrei pulita, l'avrei conservata, ma l'avrei messa nuova direttamente, ma non le vendono. Sai che cos'è lui? Può trovare qualche luna, qualche avanzo di magazzino, capito? Ma è difficile, ma poi quelle che ci sono, lui, ti la fate in bagata, 150, 200 euro, capito? Io quando l'ho comprata l'avevo pagata 70 euro, più la spedizione di 11 euro. Oh, è strano, cazzo, è un'antenna molto ricercata, ma non ne costruiscono più. No, ma trova turbo non mi piace, ma chi ha questi così in alluminio, non mi piace. Preferisco queste qua con i radiali in resina, ecco. Tu ne hai due antenne, Massimiliano? Due. Io questa che ti sono adesso è la Sirio 2016, 8 radiali. E che è meglio, la Sirio o la Avanto qua? Allora, questa come ricezione è un leggermente più bassa, è come buccia, un metro e mezzo abbondante più bassa della Mantova, però forse ho fatto una ricezione superiore alla Mantova. Vabbè, io quelli che sento bene, che non li sento essere affutti, vabbè, poi nella posizione che abito io, già non so dove abito, non è che posso pretendere, non è che posso pretendere, se stavo lì in quel palazzo di fronte a me, allora sì, forse qualcosa avrebbe sparato di più, anche tenendola bassa, non ha bisogno di alzarsi da Aricelli. Casa Brioscia, vabbè, così io, non devo fare. Così, una bella revisionata, allora adesso le pezzate, mi magari quando inizia bel tempo, se la porti giù una bella revisionata, ci metto il palo lungo, il capo lungo giustamente, una volta che non ascende ci metto il palo lungo e via. E va, vedi, muda, vediamo dalla Puglia e dal tempo che mi ritrovo, c'è il tempo di farlo. Sì, no, anche le staffe cambiano, me le faccio costruire da Roberto. Mi compro il materiale, mi pago quello che devo pagare, me le faccio costruire da lui. Poi per piazzarle già chiamo un mio amico, che gli posso mettere i piaceri, e le faccio piazzare a lui, magari poi, vabbè, ci beviamo una cosettina, un muratore bravo. Non c'è bisogno di muratore di nessuno, quattro tasselli come vi raccomando, un ferro con chimico e un MCB l'antenna. A te secondo lui vado con te a capico. Chiappa. Kappa, lui, ci sei? Io. C'ho un appetitino del MB più 4, la parte sinistra, l'FTT, boh, che sembra, o c'è la vite mollata, perché un po' se ne scende. E allora basta stringerla, ma tu ti rendi conto che io ho comprato un attrezzo da Oristano, venerdì scorso non mi è ancora arrivato, ti pagosa l'ha ferito per farlo più in fretta, ha fatto un pacco, non so, Gugosa, e sei uscito a Bologna. Ha fatto mandarlo qua, sa che c'è uscito a Bologna. Ma non è che ti ha fottito, no? No, non mi ha fottito, perché c'è tutto, c'è il trekking, c'è tutto, capito? Beh, non può fare questo giro qua, se l'è arrivato qua in Sardegna, deve stare qua in Sardegna, non è che deve uscire fuori a Bologna, no? Ma infatti non ho compreso il Bologna, abbiamo fuori da centro operativo SDA di Bologna, cioè io non ho compreso, c'è il mittente, la mia via, c'è la sua, c'è tutto il documento, capito, tutto a posto. Beh, c'è stato qualche errore allora, Massimiliano, scusa. come se io mando una cosa adesso da Sassi e la spedisco a Olbia, cazzo, non è che anda a Torino prima, no? A Olbia deve andare, parte da qua, poi va nello smistamento e va a Olbia. C'è qualche errore sicuramente. Anche secondo me ha fatto qualche errore, lui alle porte spedendo, capito? Io gli ho dato l'indirizzo, il passaporto, addirittura abbiamo mandato la foto, guarda se è giusto, l'indirizzo era perfetto, giusto. Nome, cognome, indirizzo, via, numero civico e bimumba. Ho capito, a venerdì ho guardato poi il giorno 9, che era ieri, ed era a Bologna sta cosa. E tu l'hai contattato a questo? Ma certo l'ho contattato, l'avevo contattato da ieri. Cosa ti ha detto? Che parole ha fatto? Quel pacco, quello per arrivare prima, e io lo vedo. Boh. Oh, yeah, yeah. E la sai cos'è? Comunque sicuramente c'è stato qualche errore. Poi con la scusa del Covid è un po' rallentano le spedizioni. Capito Massimiliano? Casino, cazzo. Comunque ho letto, stavo leggendo su Facebook, vabbè, sono bloccato anche un nuovo account, anche quelli mi hanno bloccato. Poi intelligente io, anche se ho cambiato il nome, non dovevo mettere la mia foto. Vabbè, ho letto comunque che stanno calando i contagi a Sassari, Meglio, meglio. Allora, questo ho spedito con Post Delivery Express. Hai inteso. Adesso vediamo, mi dice che è sempre in transito. Vabbè, nel caso che se dovesse andare tutto male, molti soldi stai perdendo. Ma io scendo a casa sua, io ho fatto la pelle addosso, cosa? Molti soldi insomma, molta spesa? Non è poca, non è neanche tanta, ma non è neanche poca. Vinti donfi, vabbè, a me la verità i soldi non me li hanno mai fregati, sì, mi hanno rubato i soldi dalla PostePay, quello sì. Da quando ho fatto la registrazione da PostePay a PayPal, si sono attaccati a Ugrongu, e insomma mi è arrivato 140 euro. E poi, vabbè, una volta insomma mi hanno fregato 5 euro cagate di una SD per cellulari, da quelle piccoline, non è mai arrivata. Poi ho controllato nella cronologia della spedizione, non esisteva più. Ma questa cosa non l'aggiornano mai. Mi dice, vedi, transito presso centro operativo SDA Bologna, UB Espresso Bologna. Capito. Questo è il 09/02/2021 alle 14:27, cioè questo ieri, giusto? Oggi è 10. Sì, ieri, la compleanno di mamma, ieri, sì. E certo la giorno Massimia, capita, passano giorni, a me un esempio, quando ordino, faccio un'ordinazione, cioè ordino male, cos'è, sono un LCD, praticamente cosa succede? Che rimane giorni e giorni così. E poi magari tipo 2-3 giorni e poi magari vedi il cambia, dai. C'è scritto che è arrivato in sede a Sassari e poi lo mettono in consegna all'indomani. Sì, ho capito, però se lo mettono in lavorazione, un esempio oggi che è 10, no? Domani mattina me lo dai in consegna, invece qua non è neanche in lavorazione per il giorno 10, nel senso che oggi è 10, dovrebbero aggiornare il numero, il tracking, e mettere il giorno 10, ti dicono dov'è, capito? Quindi se parte stanotte da Bologna, quello lì, domani mattina è in consegna, ma invece il giorno 10 non ce n'è neanche lì, buh. Ehi, vabbè. Quando hai fatto l'ordine, il? Me l'ha ferito, venerdì 5. Ehi, Massimiliano. Vabbè, lo sbaglio l'ha fatto lui, perché questa sarebbe stato già a casa tua. Il giorno 5, oggi è di 5 giorni, 7 giorni ci vogliono, più o meno una settimana. No, io quando io avevo comprato un pezzo da Cagliari, che me l'ha ferito un mio amico, l'ha ferito un esempio oggi e l'indomani a pranzo ce l'avevo a casa. Sì, in Sardegna sì, Massimiliano, da fuori, ormai il pacco tuo è fuori. Ma se io non fanno più fretta arrivare i pacchi da fuori che tra i luoghi in Sardegna. Boh. Boh, so cosa dirti. A me metto, ci mettono più o meno 6 giorni, 7 giorni lavorativi. Dipende, va, dipende. Io sono andato nel 2009 un esempio a Taranto, sono andato di martedì e lunedì ce l'aveva lì, ci mettono 4 giorni lavorativi. Cosa non ti dica? Arriverà. Arriverà. Io mi fido di comprare in altri posti, tipo Amazon o quello AliExpress. No, non mi fido. Sì, Radio 4, Becco. Non so cosa sia successo, comunque. Vabbè, va, mi è sembrato Gianfranco, giusto, Gianfranco? Sì, conferma, sto provando un microfono a tutto scritto, però non so se va bene perché se tu fa aperto i fili sono probabilmente sta anche nel scambio, credo. Devo sapere se va bene con l'amplificazione, ma se mi capo, no, un attimo, dai, capo sto microfono come lo si estremo. Ti prendi tu, ritorno subito. Vabbè. Guarda Gianfranco, io ti ascolto, la radio è un po' così. Segnale 5, ok? Non so cosa stai usando, però... Ma dove sei? Io sono vicino più giù degli punti. Ah, ho capito, quindi è una bella. Ma io sto andando con un po' di apparato, vedi, sono 54 metri, vicino da questa spalla. Sono vicino a me, vediamo un po' se si aumenta qualcosa. Qua, mi si rispetta, mi dice, comunque la migliorazione, cioè, vediamo un po', 1, 2, 3, 4, 5. Sì, ha migliorato un pochino quando ti sei avvicinato, va. Però io non ti ascolto benissimo, e forse la mia posizione...